così, quando mi disse che per qualche giorno non mi avrebbe lasciato, le proposi: «Ma io vorrei partire per Parigi. Non potreste partire con me e venire ad abitare per un po' di tempo a casa nostra, a Parigi?» Ad ogni costo dovevo impedirle, almeno per alcuni giorni, di rimanere sola, tenermela accanto per essere sicuro che non potesse incontrare l'amica di Mademoiselle Vinteuil. Questo voleva dire, in realtà, abitare sola con me, perché mia madre, approfittando d'un viaggio di ispezione che mio padre doveva fare, s'era prescritta come un dovere di obbedire a una volontà della nonna, la quale desiderava che andasse a passare qualche giorno a Combray con una delle sue sorelle. La mamma non amava questa zia, perché non era stata con la nonna così affettuosa con lei la sorella che sarebbe dovuta essere. Così, diventati grandi, i bambini ricordano con rancore chi è stato cattivo con loro. Ma la mamma, diventata mia nonna, era incapace di rancore. La vita di sua madre era per lei come una pura, innocente infanzia alla quale attingeva quei ricordi la cui dolcezza o amarezza regolava le sue azioni con gli uni e con gli altri. La zia avrebbe potuto fornire a mia madre certi dettagli inestimabili, ma adesso sarebbe stato difficile ottenerli, perché la zia si era ammalata gravemente, si diceva d'un cancro, e lei, rimproverandosi di non essere andata a trovarla prima per tenere compagnia a mio padre, non vi trovava che una ragione in più di fare ciò che sua madre avrebbe fatto. E come andava, nell'anniversario del padre della nonna, che era stato un così cattivo padre, a deporre sulla sua tomba i fiori che la nonna aveva l'abitudine di deporvi, così, presso la tomba che stava per aprirsi, voleva portare i dolci colloqui che la zia non era venuta ad offrire alla nonna. Durante quel soggiorno a Combray, la mamma si sarebbe occupata di certi lavori che la nonna aveva sempre desiderati, ma a patto che venissero eseguiti sotto la sorveglianza di sua figlia. Così non li si era ancora iniziati, perché la mamma non voleva, lasciando Parigi prima di mio padre, fargli sentire troppo il peso d'un lutto cui egli si associava, ma che non poteva affliggerlo quanto lei. «Ah, ma in questo momento non sarebbe possibile», mi rispose Albertine. «E poi che bisogno avete di tornare così in fretta a Parigi, dal momento che quella signora è partita? Perché sarò più calmo in un ambiente dove l'ho conosciuta invece che a Balbec, che lei non ha mai visto e che a me adesso fa orrore». Avrà poi capito, Albertine, che l'altra donna non esisteva e che se io quella notte avevo veramente voluto morire era stato perché lei, sbadatamente, mi aveva rivelato d'essere in intimità con l'amica di Mademoiselle Vinteuil? È possibile. Ci sono momenti in cui mi sembra probabile. Comunque quel mattino Albertine credette all'esistenza di quella donna. «Ma la dovreste sposare, piccino mio, quella signora», mi disse. «Sareste felice, anche lei, ne sono sicura, sarebbe felice». Le risposi che il pensiero di poter rendere felice quella donna era stato in effetti capace di farmi quasi decidere. Recentemente entrato in possesso di una grossa eredità che mi avrebbe consentito di offrire a mia moglie una vita lussuosa, ricca di piaceri, ero stato sul punto d'accettare il sacrificio di colei che amavo. Inebriato dalla riconoscenza che Albertine mi ispirava con la sua gentilezza, a così breve distanza dalla sofferenza atroce di cui lei stessa era stata causa, le dissi, così come si promette volentieri un patrimonio al cameriere quando al caffè ci versa il sesto bicchierino d'acquavite, che mia moglie avrebbe avuto un'automobile, uno yacht, che da questo punto di vista, dal momento che Albertina amava tanto andare in macchina e fare dello yachting, era un peccato che non fosse lei l'oggetto del mio amore, che sarei stato il marito ideale per lei. Ma si sarebbe visto. Forse avremmo potuto frequentarci piacevolmente. Malgrado tutto, così come pur nell'ebbrezza ci si guarda dall'interpellare i passanti per paura d'essere picchiati, non commisi l'imprudenza, ammesso che lo fosse, che avrei commessa ai tempi di Gilbert, dicendole che era lei, Albertine, quella che amavo. Vedete, sono stato sul punto di sposarla, ma alla fine non ho osato farlo. Non avrei voluto far vivere una giovane donna accanto a una persona talmente sofferente e noiosa. Ma siete pazzo! Tutti vorrebbero vivere accanto a voi. Guardate come tutti vi cercano. Non si parla che di voi, da Madame Verdurin, e anche nella migliore società, me l'hanno detto. È stata dunque così poco gentile con voi, quella signora, da ispirarvi tanti dubbi su voi stesso? Ho capito cos'è. È una donna cattiva. La detesto. Eh? Fossi stata io al suo posto. Ma no, è molto gentile. Troppo gentile. Quanto a Verdurin, il resto me ne importa ben poco. A parte colei che amo e alla quale del resto ho rinunciato, non c'è che la mia piccola Albertine. Soltanto lei, standomi molto vicina almeno i primi giorni, aggiunsi per non spaventarla e per poterle chiedere molto in quei giorni, potrà consolarmi un poco. Non feci che un'allusione vaga a una possibilità di matrimonio, aggiungendo che era irrealizzabile perché con i nostri caratteri non saremmo andati d'accordo. Mio malgrado, sempre incalzato nella mia gelosia dal ricordo dei rapporti di Saint-Leu con Rachel Candu Seigneur e di Swann con Odette, ero troppo portato a credere che, giacché amavo, non potevo essere amato e che solo l'interesse poteva spingere una donna ad attaccarsi a me. Certo, era una follia giudicare Albertine con lo stesso metro di Odette e di Rachel. Ma non si trattava di lei, bensì di me. Erano i sentimenti di cui io potevo essere oggetto che la mia gelosia mi faceva esageratamente sottovalutare. E da questo giudizio, forse errato, nacquero con ogni probabilità molte delle sventure che sarebbero piombate su di noi. Allora, rifiutate il mio invito per Parigi? La zia preferirebbe che non partissi in questo momento. D'altra parte, anche se più tardi potessi, non sembrerebbe strano che mi sistemassi così in casa vostra? A Parigi lo sapranno che non sono vostra cugina. Ebbene, diremo che siamo un po' fidanzati, cosa importa, dal momento che voi sapete che non è vero? Il collo di Albertine, che usciva affatto libero dalla camicia da notte, era potente, dorato, di grana grossa. Lo baciai con la stessa purezza con cui avrei baciato mia madre per calmare un dispiacere di fanciullo che credevo allora di non poter mai estirpare dal mio cuore. Albertine mi lasciò per andare a vestirsi. La sua devozione, del resto, stava già declinando. Poco prima mi aveva detto che non mi avrebbe lasciato un solo istante e sentivo che la sua decisione non sarebbe durata, già che temevo, se fossimo rimasti a Balbec, che la sera stessa avrebbe visto senza di me le cugine di Bloch. Ora mi aveva appena detto che voleva passare da Menville e che sarebbe tornata da me nel pomeriggio. La sera prima non era rincasata, pensava che ci fossero delle lettere per lei, inoltre la zia poteva essere preoccupata. Avevo risposto: se è solo per questo possiamo mandare il lift a dire a vostra zia che siete qui e a prendere le vostre lettere. E lei, desiderosa di mostrarsi gentile ma contrariata di sentirsi asservita, aveva aggrottato la fronte, poi d'un tratto molto dolcemente aveva detto «D'accordo» e aveva mandato il lift. Albertine era appena uscita che il lift bussò leggermente. Non mi aspettavo che, mentre parlavo con Albertine, avesse avuto il tempo d'andare e tornare da Menville. Veniva a dirmi che Albertine aveva scritto un biglietto a sua zia e, se volevo, potevo partire per Parigi il giorno stesso. Albertine, peraltro, aveva fatto male ad affidargli la commissione a voce, perché, malgrado l'ora mattutina, il direttore era già al corrente e, sconvolto, veniva a chiedermi se fossi scontento di qualcosa, se era vero che partivo, se non avrei potuto almeno aspettare qualche giorno, dato che il vento quel mattino era piuttosto timoroso, temibile. Non volevo spiegargli che Albertine non doveva a nessun costo essere più a Balbec nell'ora in cui le cugine di Bloch uscivano a passeggio, e soprattutto perché André, la sola che avrebbe potuto proteggerla, non c'era e Baalbek era, insomma, come quei luoghi in cui un malato, che lì non riesce a respirare, è deciso a non passare un'altra notte, dovesse anche morire per la strada. Del resto, avrei dovuto lottare contro preghiere dello stesso genere, innanzitutto in albergo, dove Marie Ginest e Céleste Albaret avevano gli occhi rossi. Marie, d'altronde, faceva udire il singhiozzo affrettato d'un torrente. Céleste, più languida, le raccomandava la calma, ma quando Marie mormorò il solo verso che conoscesse, «Ogni là qua giù deve morire», Céleste non seppe trattenersi e uno strato di lacrime si sparse sul suo viso colore dell'illà. Penso comunque che mi abbiano dimenticato la sera stessa. Poi, sul trenino locale, nonostante tutte le precauzioni per non farmi notare, incontrai il signor di Cambremer, che alla vista dei miei bagagli si fece livido, giacché contava su di me per 2 giorni dopo. Mi esasperò pretendendo di convincermi che le mie soffocazioni dipendevano dal cambiamento del tempo e che ottobre, da quel punto di vista, sarebbe stato l'ideale, e mi chiese se, in ogni caso, non potevamo rimandare la partenza a oggi 8. Espressione, la cui stupidità, forse, mi fece inferocire solo perché ciò che mi proponeva mi faceva male. E mentre il marchese mi parlava così nello scompartimento del treno, a ogni stazione io temevo di veder comparire, più terribile di Rimbaldo o Guiscard, il signor di Crécy, implorante un invito, o, più temibile ancora, Madame Verdurin, decisa ad invitarmi. Ma questo sarebbe successo solo alcune ore dopo. Non c'ero ancora arrivato. Dovevo ancora far fronte ai disperati lamenti del direttore. Lo misi alla porta perché temevo che, a furia di bisbigliare, finisse con lo svegliare la mamma. Rimasi solo nella camera, la stessa camera col soffitto troppo alto, dove ero stato così infelice il giorno del primo arrivo, dove avevo pensato con tanta tenerezza a Mademoiselle d'Estermaria, spiato il passaggio di Albertine e delle sue amiche come quello di uccelli migratori posatisi sulla spiaggia, dove l'avevo posseduta con tanta indifferenza la volta che avevo mandato il lift a cercarla, dove avevo conosciuto la bontà della nonna e poi avevo preso coscienza della sua morte. Le imposte, sotto le quali filtrava la luce del mattino, le avevo aperte la prima volta per vedere i primi contrafforti del mare, quelle imposte che Albertine mi faceva chiudere perché non ci vedessero mentre ci baciavamo. Mi accorgevo delle mie trasformazioni confrontandole con l'identità delle cose. Ci si abitua ad esse come alle persone, quando di colpo ricordiamo il significato diverso che hanno comportato e poi, una volta perduto ogni significato, gli avvenimenti, così diversi da quelli presenti, di cui sono state cornice, la diversità degli atti compiuti sotto lo stesso soffitto, fra le stesse librerie a vetri, il cambiamento nel cuore e nella vita che tale diversità implica, ci sembra ancora accresciuto dalla permanenza immutabile dell'arredo, rafforzato dall'unità del luogo.